Buonasera e benvenuti. Alla puntata numero 42 del Focolare Elettrico, il nostro podcast che parla di videogiochi e game design. Io sono Marco. Io sono Jacopo. E forse, come avete capito dal buonasera iniziale, registriamo un po' più tardi oggi per restare più o meno in regola con la nostra release schedule. Sì, voglio scusarmi per la release dell'ultimo episodio che anche i migliori ha avuto qualche intoppo, esatto. Succede anche ai migliori, Jacopo. E voglio scusarmi, spero di non risultare troppo assonnato, almeno all'apparenza, ma come dire, quando il dovere chiama. Tanto stiamo registrando alle 3 di notte per esatto. Per riuscire a rilasciare il podcast. Sono i lupi che ululano fuori, speriamo non si sentano. Quindi, allora, che dire? Guarda, abbiamo una puntata interessante, secondo me, stasera, ma direi di partire con le nostre classiche rubriche. Jacopo. Esatto, perché abbiamo due cose di cui parlare. Prego, comincia pure. Allora, Marco, dica. La saga di Epic Apple volge al finale, insomma, sì, a un sì, finale. È vero, la volevo dire anch'io quella stasera. Mi okay. Hai tolto le parole di bocca. No, prego, introduci, assolutamente. Ok, essenzialmente la causa è arrivata al termine, il giudice ha deciso e ha vinto l'Apple per la maggior parte dei punti, diciamo, della causa, ma la Epic ne ha vinto uno importante, ovvero la Apple non sta violando norme diciamo, il monopolio per ora, però questo non è vero per quanto riguarda gli acquisti dentro le app, perché il giudice ha deciso che dentro le app stesse, se qualcuno vuole comprare, tipo, che ne so, un abbonamento a un giornale, togliere le pubblicità o quello che è, gli utenti devono essere spesa di soldi, diciamo. Gli utenti devono essere in grado di scegliere il proprio metodo di pagamento indipendentemente dallo store Apple, insomma. Insomma, in questa lotta tra giganti non ci sono né veri vinti né veri vincitori, oserei dire quasi. Esatto. Diciamo che le cose che ha perso la Epic sono costi da, diciamo, milioni di dollari di costi. Uno sfracasso di soldi, diciamo. Questa che ha vinto la Epic, però questa che ha perso l'Apple, costerà la Apple potenzialmente miliardi, perché si parla di tanti acquisti in app che potrebbero andare a finire su servizi di pagamento alternativi, ma non è detto, insomma. E che, in mia modesta opinione, comunque, è stata una scelta importante, questo perlomeno, come dire, una presa di coscienza importante, perché sarà che Apple non era del tutto un monopolio, però non è che ci allontanassimo del troppo dalla definizione in questo caso. Quindi no, è un monopolio, cioè secondo me è un po' un monopolio, nel senso che molti fanno questo paragone col fatto che, però, capito, per un discorso di sicurezza, di piattaforma, di integrazione con la piattaforma, ci deve essere. C'era anche molto la storia del fatto che, come dire, non tutti sono. Non tutti gli. Oh mio Dio. Cominciamo bene, non tutti hanno un Apple, nel senso che c'è un altro grande competitor che è l'Android, che mi sembra fosse saturato come. Come dire, come dimostrazione di non essere un completo monopolio. Però insomma, è un po' però un monopolio. Bisogna dire che all'interno del sistema Apple, la Apple è il monopolio stesso, nel senso che toglie molte, tra virgolette, libertà ai suoi consumatori, e questa, come diceva Jacopo, potrebbe essere un inizio importante per quanto riguarda certe cose, soprattutto questioni economiche, anche al di fuori dell'ambito videoludico. Fa molto ridere che sia stato Fortnite a causare, esatto, tutto. Mi fa ancora troppo ridere il metaverso di comunque, la cosa positiva, insomma, è che hanno perso entrambe. Esatto, certo, perché senso. Va anche detto che adesso, se non sbaglio, Fortnite è stato rimosso dall'App Store. Sì, la Apple non è obbligata a rimetterlo. Sì. Esatto, perché è stato effettivamente trovato in, come dire, in breach, in, come dire, ha rotto il contratto con la Apple veramente, secondo il giudice, e quindi la Apple ha tutto il diritto di non rimetterlo sull'App Store, che, usando un po' di francesismi, potrebbe essere un bel calcio nelle palle per la Apple. Comunque non cambia molto, ormai era fuori dall'App Store da tanto tempo. Sì. No, sicuro in... non perderà l'altro suo piccolo monopolio che si è creato, però un cioè, colpo... Tutti quanti i bambini che volevano continuare a giocarci sul telefono perché non avevano altre opzioni, avranno già cambiato... Avranno comprato un altro telefono. Esatto, hanno già... Allora... Non per fargli stronzi, ma se avevano il cellulare Apple, probabilmente hanno anche un computer a casa per giocarci. No, non credo. Però sì, cioè, sicuramente negli anni che sono passati, perché ormai... No, anni, vabbè. Mesi, sicuramente, che sono passati, avranno cambiato telefono. Scusate, qua è uscito un po' fuori, forse la mia... il mio disdegno verso la mela. Ma questa era una. Importante, assolutamente, è stata una scelta molto interessante da parte di quei giudici americani. A cosa ti riferivi per la seconda notizia, Jacopo? In realtà è una notizia inutile, nel senso è stato rivelato che domani per noi, domani quindi vuol dire 7 settembre, uscirà Deltarune capitolo 2. Davvero? Non l'avevo sentita questa. Mi era sfuggita questa notizia. Ah, interessante. Beh, chissà se Toby Fox ci meraviglierà ancora. Queste, queste erano le due notizie, insomma, niente di che. Se tu volevi dire qualcos'altro da... Non credo di avere molto altro da aggiungere con le notizie. Cioè, sempre per aggiornarvi, la Blizzard è ancora di più una merda, sembra che stia facendo anche cose un po' losche ai suoi dipendenti per cercare di, come dire, arginare il fiume in piena della causa, ma... Oddio, no! Che cazzo dico? Scusa, no! Mi sono ricordato una cosa importantissima. Prego. C'è stata la conferenza importante di della PlayStation, cioè hanno fatto una conferenza Sony abbastanza importante, giusto, e hanno annunciato il remake di KOTOR, di Knights of the Old Republic, che è un gioco bellissimo, è vero. RPG Star Wars, il sequel di Marvel's Spider-Man, che è uno dei giochi più belli usciti per PS4 della storia proprio, e ha annunciato il gioco di Wolverine dagli stessi tizi che hanno fatto il primo Spider-Man. Quindi, a quanto pare hanno 10.000 dipendenti, come dice Geno Schreier, ma Insomniac è veramente tanta roba. Sì, perché cioè, hanno fatto l'espansione del primo, che è Miles Morales, a novembre è uscito, novembre scorso. Pochi mesi fa, tipo a maggio, giugno, non ricordo, è uscito Ratchet & Clank, che è bellissimo, tra l'altro, dicono tutti che è stupendo, io non ho trovato la voglia di giocarci, però, a parte, però, e questi già stanno a fare, cioè, infatti uscirà tipo nel 2027, quando saremo già tutti quanti morti nella radiazione. Sì, insomma, chi lo sa, magari stanno incanalando tutti quei pochi guadagni del gioco free to play, pay to win della Marvel nella Insomniac, sperando di salvare il salvabile nella parte videoludica, il che potrebbe essere veramente un'ottima idea a questo punto, perché tu dici la Marvel sta finanziando, sì, forse, ma la Marvel non c'entra, secondo me è più probabile, è più la Sony, insomma. Non so chi sia l'altro developer che ha fatto il gioco, il MOBA, cos'è, non so neanche come definirlo, il gioco della Marvel con tutti i supereroi, che è andato abbastanza male di recente. Ah, quello dici, quello Marvel's Avengers, quello, esatto, della Square Enix. Sì, sì. Era Square Enix e mi pare Eidos Montreal, o comunque erano i tizi di Deus Ex. Infatti mi piange il cuore ogni volta che... E beh, la Square Enix, la casa che ci ha portato The Quiet Man. E... Non dimenticate. gioco proprio che ha scavato le classifiche, come direbbe, resterà nella storia. E quindi niente, queste sono le notizie. Scusa se ti ho interrotto mentre... No, assolutamente, hai fatto benissimo a ricordarmelo. KOTOR, devo ammettere che mi incuriosisce, perché in realtà io non l'ho mai giocato. Come tu ben sai, la saga di Star Wars non è mai stata nelle mie corde, diciamo, non ha mai toccato troppo le mie corde. Però un KOTOR nuovo, chi lo sa, un remake, non giocherei volentieri, visto che ne parlano tutti incredibilmente, il gioco della vita di Star Wars. Sono molto curioso. Sì, è un gioco che riesce a intrattenere, che riesce a risultare bello, diciamo, anche se non sei nulla di Star Wars, perché è una storia quasi completamente scollegata, molto bella, secondo me, fatta bene. Cioè, mi ricordo, io avevo un amico che ci giocava su Xbox originale, e guardarlo giocare comunque era bello. Nel senso, non era un gioco bello da vedere visivamente, ma la storia, i personaggi, i dialoghi, quello che potevi fare a livello di scelte narrative, di scelte di... come posso dire? Di allineamento, no? Lato chiaro, lato scuro, cioè... Non voglio spoilerare nulla, ma è stupendo. Cioè, io, nonostante sappia più o meno la storia, penso ci giocherò felicemente. Molto interessante, un altro, come dire, sempre perché quando ci si mette un po' di impegno, di qualità, alla fine i giochi anche loro hanno un certo impatto, o no? Marco, perché sei così... Non so, sarà polemico. La stanchezza che mi rende un po' acido stasera. Ma no, se volevi, ma che proprio... cazzo? No, vabbè, cioè, è un precursore di Mass Effect, diciamo, no? Tutti quegli elementi, no, perché sono serio, tutti quegli elementi che rendono Mass Effect bello, specialmente il 2, sono elementi che erano già nati nel Star Wars The Old Republic, diciamo. Ah no, pensavo, ci avevo forse letto io una critica velata al fatto che, come dire, come gli ultimi capitoli di Mass Effect, anche gli ultimi capitoli di una, come dire, dei giochi di Star Wars potessero aver perso un po' la loro magia, ma forse l'avevo letta... Ah, no, io dicevo, stavo continuando a parlare di quello. No, questo è un altro discorso. Ok. Dico solo che, per fortuna, che Electronic Arts non ha più il monopolio sul marchio. Vabbè, comunque. Giusto, diciamolo, questo, chi è la casa che lo fa? Giusto per curiosità, se lo ricordi. Non ricordo. Andremo a controllare. Probabilmente è sempre l'EA, però qualcun altro... Non è BioWare, mi sa, che lo sto facendo. No, però Star Wars per tanto tempo è rimasto solamente a Electronic Arts, che in tantissimi anni ha fatto solamente Battlefront e 1 e 2 e Jedi Fallen Order, che a me è piaciuto, però vabbè, nel senso... E Rogue Squadron. Mm-hmm. Ho cercato, a quanto pare è la Aspyr che lo sta sviluppando. Devo mettere, non ho mai sentito. Vabbè. Detto questo, passiamo a... No, sti cacchi, è quella che ha fatto Civilization, leggo bene? What? Ha fatto Civilization, tra le altre cose. Non è Firaxis quella? No, aspetta. What? Andremo a informarci meglio, non vogliamo, come dire, dare informazioni sbagliate. Quindi, okay. Mentre aspettiamo KOTOR, tu hai giocato qualcosa di interessante anche per dare un po' di, come dire, altre piccole pillole di informazioni ai nostri ascoltatori? Sì. Ho giocato due giochi che sono molto simili fra di loro, ovvero Super Mario Bowser's Fury e Doom Eternal. Ci sta. Vabbè, non c'entro un cazzo. Però è bello, è bellissimo Bowser's Fury, perché è una specie di espansione barra spin-off di Super Mario 3D World, per chi sa chi è, vabbè. Ed è praticamente questo piccolo mondo open world dove tu sei Super Mario e vai in giro a raccogliere questi, come al solito, soli, lune, cose raccoglibili così, e però ogni tanto dal centro della mappa esce fuori un kaiju che è Bowser in versione enorme e incazzatissima, e tu devi o, diciamo, rimandare Bowser a dormire con uno di questi raccoglibili, oppure mandare avanti la storia diventando un enorme gatto Super Saiyan e dandogli cazzotti. È bellissimo, cioè, è super, diciamo, divertente, è super anche tosto, cioè ci sono alcuni momenti dove si sono allineate delle cose per cui vuoi completare al 100%, è anche un po', come dire, non è così semplice come sembra. No, è tostarello. Tu l'hai giocato, quindi? Sì, l'avevo giocato qualche mese fa, quando ero capitato a mia sorella che ha la Switch. Infatti, anche io l'avevo, come dire, non mi ricordo bene come l'avessi descritto, perché ne avevo parlato una volta nel podcast. Ah, oddio, scusate, sono già dimenticato. Il problema c'è, siamo... Io l'ho avvertito molto, e dimmi anche tu adesso che l'hai provato, l'ho sentito molto... Perdona l'estrema semplificazione, ma Mario Breath of the Wild, quasi. No. Non è inteso ovviamente che fosse al pari di Zelda, però l'intenzione era quella, nel senso del grande mondo con mille cose che attirano la tua attenzione, che ti spingono ad esplorare, quasi. O come dire, o è troppo semplificata questa descrizione? Troppo semplificata, perché secondo me... La cosa che questo gioco fa bene è l'avere un mondo piccolo, perché il problema secondo me di Breath of the Wild è che se mi dà una sensazione di mondo enorme, di mondo infinito, e quindi magari è un po' ti spaventa un po' quanto è grande, diciamo, non è che ti invita subito al completismo. Invece per me, che sono un completista, in questo gioco non ho il problema di dire oh cazzo, ma 900 semicorok non li prenderò mai, perché è molto piccolo, quindi mi piace molto che sia un'area di gioco piccola, che sia contenuta, che sia molto, diciamo, anche tecnica come difficoltà. Quindi per me è stato più un Mafia, paradossalmente, cioè il primo Mafia, hanno fatto un remake dove quello che intendo è che il mondo di Mafia, il mondo è molto piccolo ed è molto intenzionale, e questo mi piace molto di Mario, perché anche se erano tutte quante isole collegate in un mondo unico, era molto intenzionale, diciamo, ogni mondo, no? Cioè, magari avevi quelle 3-4 varianti come andavi avanti in ogni isola, però erano molto livelli, no? Cioè, non lo so, è più un gioiello, più un... Sì, cioè... Non è una torta come Breath of the Wild, è un pasticcio. Esatto, sì, ecco. Bellissima questa definizione, perché in effetti, ovviamente sì, non volevo mai insinuare che fosse grande o complesso quanto Breath of the Wild. Quello che cercavo di dire era più che c'era un po' la filosofia di Breath of the Wild dietro. Era, come dire, quasi una... piccolissima versione di quella che era un po' l'esperienza Breath of the Wild, intesa che spingeva all'esplorazione, alla ricerca, in questo grande piccolo livello alla fine. Sì, però appunto... Di pure. No, scusa. No, di pure. Cioè... secondo me è un gioco fatto per divertimento, nel senso, ho avuto proprio l'impressione che si fossero divertiti a farlo, perché è evidente che hanno riciclato tantissima roba da 3D World per il remake, ma è anche evidente quanto si fossero divertiti a fare livelli, a fare questo concetto del kaiju. No, ma infatti è straordinario, perché le meccaniche di base sono tutte di 3D World praticamente, non c'è quasi nulla di effettivamente nuovo, ma hanno preso questi pezzetti, questi mattoncini Lego, li hanno se prima avevano fatto il dinosauro, li hanno rimessi insieme, questa volta hanno fatto una cosa completamente diversa. Ed è estremamente divertente, come dicevi tu. Quindi è molto bello vedere quando il developer, come dire, la casa di produzione riesce effettivamente a sorprenderti in questo modo, perché ha rimesso insieme tutti i pezzi già visti, ma in una maniera mai vista prima. Vai, scusami, sì. Questo essenzialmente volevo dire. Beh, mentre tu ti, come dire, ti divertivi con Mario, io, giusto per te, per dire anche la mia, io mi frustravo con Isaac, mannaggia Tainted Lost, e poi, visto che sono riuscito anche più o meno a trovare una scheda video finalmente per il mio computer, ho avviato per la prima volta dopo tanto tempo che era lì in libreria di Steam The Witcher 3, e adesso wow, sono partito anch'io per il viaggio per l'ultimo viaggio di Geralt, almeno per il momento. Molto tutto bene. Qui non penso di dover dire nulla riguardo di Isaac o Witcher 3. Penso che, beh, Isaac ne abbiamo ampiamente parlato, Witcher 3 ne hanno parlato molti altri rispetto a noi, quindi bene. Niente, io invece su Doom Eternal, no, in realtà neanche io ho tanto da dire, penso di averne già parlato. Sto giocando le due espansioni e mi sto, come al solito, divertendo un casino. È sempre molto molto catartico giocarci. È catartico giocare. Rilassante, oserei dire quasi. No? Molto rilassante. Dura giornata di lavoro. Perfetto. Direi che, guarda, Doom Eternal potrebbe essere una, come dire, un protagonista che occuperà una buona parte di questa puntata, se non almeno così suppongo, perché andiamo con ordine, ovviamente. Introduciamo l'argomento di stasera, come forse avete... Oddio, forse questo è uno dei titoli un po' più criptici delle nostre puntate. La puntata di oggi si intitola infatti Heroic, ovvero eroico. E come dicevo poco fa, Jacopo, prima di iniziare, il titolo di questa puntata deriva da Halo, il primissimo Halo, e dalla sua difficoltà appunto chiamata eroica, che, come dire, era quella che gli sviluppatori avevano con cui avevano pensato il gioco, ovvero la difficoltà tra virgolette giusta. Ed è infatti di questo che vogliamo parlare stasera, perché anche questa cosa che ho appena detto, la difficoltà giusta, suona quasi male. Perché stasera parliamo proprio di difficoltà. Quelle giuste, quelle sbagliate, quelle che non servono, quelle che nemmeno ci accorgiamo ci sono. E beh, però sì, se non te ne accorgi, sono davvero difficoltà. Se non te ne accorgi, quella è la vera è la difficoltà giusta, allora. Forse oppure sì. È completamente sbagliata, non lo so, e ma niente. Io volevamo solo fare un piccolo una menzione d'onore a una delle difficoltà più famose della storia del videogioco, quella proprio proprio di Halo. Piangere così, so, poi volevo dare, come dire, un po' di emozioni a Jacopo. E quindi, detto questo, parto subito con un aneddoto. Sai che, sempre in quelle piccole e brevi ricerche che faccio nei 20 minuti prima di iniziare l'episodio, mi ero chiesto effettivamente quali fossero i primi giochi che utilizzavano un concetto di difficoltà, nel senso facevano scegliere la difficoltà all'utente. E mi sono ricordato barra scoperto, perché ho anche visto dei dettagli, come dire, mi ricordavo che l'avevo già sentita questa cosa, ma non in tutto e per tutto, Però la selezione della difficoltà arriva anche prima dei giochi, arriva dalle console stesse, quando nell'Atari 2600 c'era la manopolina che ti permetteva di selezionare la difficoltà del gioco. Io questa cosa qua mi ricordavo di averla letta da qualche parte, ma ritrovandola stasera mi ha fatto... mi è scappato un sorriso a ripensarci, perché sembra una cosa così... Ah, però spiega bene. Qua. E a quanto pare nell'Atari 2600, console degli anni 80, praticamente 70-80, c'era questa manopolina che il giocatore poteva... con la quale il giocatore poteva aggiustare la difficoltà dei giochi che venivano inseriti nella console. Era proprio una cosa hardware da console, e questa cosa mi ha fatto molto ridere a pensarci. Wow. Penso poi che tipo nelle versioni un po' dopo, nel senso dell'Atari sempre, fosse stata tolta, credo, non mi sono informato troppo, però era comunque una cosa che esisteva. E ho scoperto che tra i primi giochi ad avere la difficoltà c'è il famoso Adventure, sai, quel gioco in 8 bit che è diventato famoso, se non sbaglio, perché era tipo il primo, dove avevano trovato il primo easter egg, o comunque così diceva il film. Di, è vero, sì, sì, sì. Film di Steven Spielberg. Lasciamo perdere. Non parliamo di Ready Player One stasera, per favore. Però sì, c'è, cioè, già in un gioco come Adventure c'era una selezione della difficoltà. Tra l'altro anche molto interessante, perché alla fine, non essendoci semplici mostri da combattere, non era un gioco di statistiche, la difficoltà veniva modificata proprio rendendo più semplici o più complesse le mappe dove il giocatore doveva appunto esplorare i vari labirinti che componevano il gioco. Quindi anche lì, tanto di cappello, che non so che altro aggiungere. Interessante. Mi ha colpito questa cosa. Anche perché, prima cosa da dire, direi, come argomento di questa sera, la selezione della difficoltà può essere un argomento controverso, diciamo. Guarda, è il motivo per cui stiamo facendo questo episodio, in realtà. Perché è un argomento che crea scompiglio e polemica più del necessario, secondo me. Guarda, direi che è quasi il Dark Souls degli argomenti di videogiochi. No, il Dark Souls degli argomenti di videogiochi è... oh mio Dio, c'è una donna in questo videogioco. Questo vuol dire che questo videogioco è politico. No, cioè... L'argomento della difficoltà nei videogiochi va un po' a braccetto con un altro argomento che magari non facciamo oggi, faremo in futuro, che è l'argomento della critica dei videogiochi, delle recensioni del giornalismo intorno ai videogiochi. Perché, bene, sì, se nel caso non lo sapeste, ci sono tante testate giornalistiche specializzate, tanti canali YouTube specializzati che fanno critica. Non dico proprio a livello di giochiamo questo gioco e parliamo, tipo, che ne so, FaviJ o PewDiePie, o i più famosi, no? Che semplicemente prendono un gioco e fanno intrattenimento sopra il gioco, ma proprio persone che di mestiere recensiscono e criticano videogiochi, e quindi fanno parte della stampa videoludica, mettiamola così. Quindi in Italia abbiamo... Ci possiamo forse quasi contare anche noi, tra molte virgolette, ovviamente. No, io non mi ci conterei. Vabbè, in Italia abbiamo Multiplayer.it, RI, Eurogame, cioè abbiamo dei rappresentanti di questa stampa, ma all'estero, cioè, Germania, Inghilterra, America, così, tantissimi, ce ne sono tantissimi. Quindi questo, diciamo, argomento va un po' a braccetto con un discorso un po' più ampio di critica, cioè di, diciamo, di sentimento anti-intellettuale, anti-giornalistico che c'è, però nello specifico ci sono due linee di pensiero principali. Poi, ovviamente, ognuno ha diverse sfaccettature, ognuno ha la sua opinione specifica, però, correggimi se sbaglio, c'è la corrente di pensiero del giocatore di Dark Souls nutelloso che vorrebbe avere un autografo di Miyazaki sul polpaccio, stampato, io pensavo tatuato proprio sul petto o sul pene, sul pene direi, molto, magari solo le iniziali, che praticamente dice la difficoltà di un gioco è una sola ed è quella che l'autore del videogioco ha inteso. Questa è un'interpretazione. L'altra interpretazione, diciamo, di questa linea di pensiero potrebbe essere: la difficoltà del gioco è una sola, perché la mia identità si basa sul fatto che questo gioco è molto difficile e mi devo vantare di essere riuscito a batterlo 50 volte. Questa è un'altra... No, beh, così sembro un procidello io. Adesso ho capito perché sul pene ci stanno solo le iniziali di... Sono un procidello anch'io, mi stai... No, beh, non mi stai contagiando. Però diciamo che... come posso dire, la difficoltà può avere anche un aspetto sociale, non solamente di cioè un aspetto personale di godibilità e di intenzione artistica autoriale, però vabbè, ci arriviamo a parlarne. L'altra corrente di pensiero invece è opposta, dice: la difficoltà dipende dal giocatore, ogni giocatore ha diritto a godere del titolo che ha comprato, no? Cioè ha diritto a finirlo, ha diritto a giocarlo senza frustrazione. Di giocarlo come vuole, tecnicamente, come e c'è, esatto, c'è l'argomento, c'è un argomento aggiuntivo da dire, che è l'accessibilità, ovvero la difficoltà ormai va, diciamo, di pari passo come argomento con la difficoltà, perché in alcuni giochi, anche se non c'è una difficoltà come facile, normale, difficile, no? Come semplicemente una selezione, anche a questo ci arriviamo come argomento, ma ci sono una serie di opzioni per l'accessibilità, diciamo, di strumenti per rendere il gioco più accessibile, che variano dal, che ne so, se in un gioco devi prendere la mira con un'arma, il gioco ti aiuta a prendere la mira, se in un gioco non ci vedi bene, ti mette le silhouette dei personaggi, no? Ti fa vedere che questo personaggio è nemico, c'ha un'aura rossa, magari ti mette in evidenza degli oggetti che puoi raccogliere, tante cose, ti aumenta la dimensione dei sottotitoli, ti fa sentire, cioè ti fa leggere i sottotitoli per dei dialoghi che non sono in un filmato, magari sono dialoghi che sono intorno a te. Tutte queste cose, perché magari un giocatore ci vede bene, un altro giocatore ci vede di meno, un giocatore ci sente bene, un altro ci sente di meno, un giocatore magari ha problemi motori più di un altro. Siamo tutti diversi, ognuno di noi ha problemi diversi. Quindi, mille tipi di disabilità che non devono comunque impedire al giocatore di divertirsi. Ma neanche disabilità, cioè io mi sono trovato più spesso ad usare le opzioni di accessibilità perché il gioco mi rimaneva più fruibile avendo i sottotitoli, quelli che dicevo prima, ambientali. Assolutamente. O magari avendo gli oggetti evidenziati. Cioè, chiunque ha ragioni sue personali per farlo, che non sono solamente disabilità, magari sono semplicemente delle deficienze o delle preferenze. Quindi ci sta. È un discorso, secondo me, io non nascondo di essere più per la seconda, diciamo, corrente. Mm-hmm. Però magari... facciamo, come si dice, farò l'avvocato del diavolo, cioè nel senso, la prima corrente di pensiero non è del tutto sbagliata. Siamo fare benissimo parti contrastanti in questo caso. E tu sei più per la prima. Guarda, io ti devo dire, tra queste due definizioni che sono effettivamente i due estremi, no, di questa linea retta, no, su cui si possono porre i vari giocatori. Io in realtà ritrovandomi sempre a fare la Svizzera in tutto, sono assolutamente neutrale su questioni del genere, nel senso, mi interessa poco, però devo ammettere che tendo a preferire quei giochi che hanno effettivamente una difficoltà definita dai propri autori, che hanno, come dire, che rendono la difficoltà del gioco stesso, e quindi, scusate, la progressione del giocatore all'interno dell'esperienza una parte integrante del gameplay, nel senso che non è solo, non voglio iniziare già subito a fare discorsi, però diciamo che no, vabbè, ci sta, deve essere io preferisco quei giochi in cui tutto è stato un po' calcolato e le sfide non mi dispiacciono, non, di certo non, come dire, non mi ritraggo di fronte a una sfida. E, però, come dicevo, quella è una preferenza personale e non sono mai stato così gran voce di nessuna delle due parti, portavoce di nessuna delle due parti. Ma neanche io, cioè, il gioco che ho osannato l'altra volta, Sekiro, è così, ha una difficoltà e basta. In realtà però non è vero, perché Sekiro ha una modalità più difficile, se ci pensi. Giusto. E non solo, ha una modalità più difficile sopra la modalità più difficile anche, quindi ha due modalità difficili in più rispetto alla difficoltà normale. Quindi se ci pensi, già quello è un gioco che non è bilanciato con una sola difficoltà, è stato bilanciato più volte. Quello che dico io è semplicemente che anche un gioco che ha una sola difficoltà, va bene, facciamo una piccola presentazione generale come i vecchi tempi, le prime puntate del Focolare Elettrico. Okay. Tu fai partire il gioco, quando premi nuova partita, diciamo, con il tuo gioco nel menu principale, alcuni giochi ti chiedono a priori la difficoltà. Esattamente come Halo. A cui come premi. Halo, no? Halo ti dice facile, normale, eroica e leggendaria. Lasciamo prima perdere... di una qualsiasi scena cinematica. Esatto, esatto. Lasciamo perdere i modificatori tipo i teschi, vabbè, è un discorso un po' più complicato, magari lo facciamo dopo, però ogni difficoltà, di solito, se il gioco è fatto bene, ha una descrizione almeno, no? Anche se il gioco te la presenta subito, almeno ti dice, guarda, questa difficoltà è per chi non ha mai giocato questo tipo di gioco, questa difficoltà è per chi ha giocato ma non si sente un veterano. Questa difficoltà, come nel caso di Halo, è la difficoltà per cui è inteso giocare ad Halo, la difficoltà eroica, il titolo di questo podcast. Poi c'è quella leggenda che dice se ti vuoi fare del male. Quindi è come dire... Per i giocatori più esperti. Ogni difficoltà ha un target di utenza, ha un tono di voce, ha un tono di scrittura della descrizione, e vuole lasciare intendere qualcosa. Quindi tu, diciamo, cominci a giocare avendo in testa un'esperienza, cioè ti aspetti qualcosa da quel gioco, no? Per me ci sta, cioè, per me, cioè, sento di aver fatto un passo avanti come giocatore quando ho cominciato a giocare a Red Faction Guerrilla, tanto tempo fa, ho scelto come difficoltà la difficoltà facile. Non perché non mi sentissi bravo, perché, cioè, il gioco magari mi aveva spaventato, oppure non so giocare a quei tipi di gioco, perché Red Faction Guerrilla è semplicemente uno sparatutto in terza persona dove puoi distruggere edifici, eccetera. No, è semplicemente che la mia aspettativa di quel gioco, cioè quello che io volevo da quel gioco, era fare macello, era fare balotta, come si dice, no? Cioè, Ci sta. era distruggere cose senza pensare, cioè. E ci sono persone, ovviamente, che questo tipo di ragionamento lo fanno per tanti giochi per cui non hanno tempo di sviluppare troppa dimestichezza, o magari non hanno la costanza, forse si può dire, per sviluppare la dimestichezza, l'abilità dei controlli, no? Magari tu hai un lavoro, hai una famiglia, hai impegni. Quindi, cioè, è giusto, secondo me, avere una difficoltà consigliata, su cui magari gli sviluppatori hanno sprecato più risorse nel bilanciare il gameplay, ma è anche giusto dare questa opzione di renderlo più facile o più difficile il gioco, secondo me. È un'opzione che è bella da avere, e non mi sembra onesta l'idea di dire no, ma l'intenzione autoriale è una sola. Sì, ma non vuol dire che tu non possa goderti in altri modi, perché alla fine sei tu che scegli quanto tempo hai a disposizione, quanta voglia hai, quanta costanza hai. È un po' cioè, faccio un esempio, Netflix, che ha messo il pulsante per andare avanti veloce. A me dà fastidio, Ma io sono il primo che quando una serie TV mi rompe i coglioni fa skip avanti, no? Vado avanti di 10 secondi perché c'è una scena prevedibile, okay. Cioè, io non mi nascondo da confessare che l'ho fatto, cioè nel senso, lo fanno grilegio. Tutti. No, non sai che te, cioè a me dà fastidio, però mi rendo conto che anch'io l'ho fatto, quindi cioè è una cosa utile, cioè se Netflix non concedesse la possibilità di skippare avanti, di andare avanti, mi incazzerei. Comunque, beh, questi sono giochi. No, finisci, poi vado io, che continuiamo a parlarci sopra. Diciamo, questi sono giochi che però non ti danno, secondo me, questa, diciamo, la circostanza. Hanno comunque dei problemi. Cioè, io adesso l'ho portato come esempio apparentemente positivo, no? Ho detto, questa è la prima categoria di diciamo selezione della difficoltà, e a questa, diciamo, a questo lato positivo, che tu puoi allineare la tua aspettativa con quella con l'esperienza che ti darà il gioco essenzialmente, certo. Però ha dei problemi anche, no? Poi va bene, parleremo andando avanti. Semplicemente tu stai scegliendo qualcosa che non sai come si materializzerà essenzialmente. Allora, secondo me hai introdotto subito uno dei fattori che secondo me la gente fa ancora fatica, come dire, quelli che magari, non so neanche come definirli, cioè quelli che non sono attratti dal mondo dei videogiochi, non penso neanche abbiano un'opinione al riguardo, quelli che invece se ne intendono di più, è una cosa che mi sorprende ancora che, come dire, faccia discutere, perché, come hai detto tu, il punto più, secondo me, importante di tutta la questione è che, per quanto possa sembrare semplice una cavolata la scelta della difficoltà all'inizio del videogioco, perché è una cosa che il più delle volte appare all'inizio e poi dopo uno se ne dimentica un po', anche se adesso alcuni giochi ti permettono di modificarla in maniera più dinamica, anche durante la partita. Ma come dicevo, una cosa che mi sembra sempre che tutti se ne dimentichino è di quanti fattori in realtà ci siano dietro la possibilità di scelta della difficoltà. Nel senso che, da un lato, c'è il volere degli sviluppatori, che hanno pensato a una difficoltà precisa per il loro gioco, che permettono, come dire, ma che si, a volte anche un po' al di fuori dal loro volere, si trovano costretti, magari, sotto richiesta di qualcuno più in alto di loro, di includere anche difficoltà diverse per rendere più accessibile il gioco. A volte invece sono assolutamente loro che, come dire, prendono coscientemente questa scelta per appunto rendere il più possibile accessibile questa esperienza a tutti quelli che possono essere interessati. Dall'altro lato ci sono i giocatori che possono avere mille ragioni diverse per giocare a un gioco in un certo modo piuttosto che in un altro. Ci sono quelli competitivi che andranno sempre sulle difficoltà maggiori, ci sono quelli che magari, anche quello è il punto, in un franchise che non è magari famoso per la sua storia o per cui comunque i giocatori non sono, come dire, la storia magari non è proprio la punta, no? La punta di diamante dell'IP, preferiscono comunque giocarlo solo per la storia, scegliendo appunto la difficoltà, voglio godermi la storia, no? Come adesso si vede già molto più spesso. Una terza parte è, io direi, anche il gioco stesso, no? Perché a seconda di quanta importanza come dire, l'esperienza dà al suo modo di essere giocata, cambia anche l'idea che c'è dietro la scelta della difficoltà, perché, tornando sempre ai soliti sospetti, non riuscirei a immaginarmi giochi come Dark Souls, Binding of Isaac, che sono quelli più famosi, la maggior parte di quelli della From, anche se, come abbiamo detto adesso, Sekiro ha già dimostrato di essere più flessibile sotto questo punto di vista, ma come dicevo non riuscirei a immaginarmi questi tipi di giochi con una selezione della difficoltà, perché il punto del oserei dire che quasi tutto il gioco si perde se non c'è effettivamente la sfida o una difficoltà da parte del giocatore, perché a quel punto tutto il gioco senza un po' quello diventa quasi un po' vuoto sotto un certo punto di vista. È letteralmente la sfida, la difficoltà è uno dei pilastri, per usare un termine che viene usato abbastanza nell'ambito di game design, su cui si basa il gioco stesso. E questo è solo giusto per dire quante cose diverse ci possano essere in ballo sulla decisione, anche solo di mettere o non mettere una possibile scelta delle difficoltà, senza poi contare quando poi si dovrà andare a vedere se questa scelta, se questo cambio di difficoltà è stato fatto bene oppure no, perché è anche quello uno dei punti molto, come dire, una delle questioni molto importanti da verificare. E infatti penso che, come dicevo prima, molto spesso è come tante altre cose nella vita, è un'altra di quelle cose che faccio fatica a capire, perché la discussione in sé non esiste nemmeno, nel senso, la difficoltà nei videogiochi ci sta quando ci sta e non ci sta quando non ci sta, se vogliamo proprio fare, se voglio fare proprio il sempliciotto. Autologico. Esatto. Quello che mi interessava un po' di più era magari anche discutere a volte di un po' altri tipi di aspetti. C'è non tanto quindi se la che come dicevi tu, quale delle due parti noi fossimo sostenitori, perché come ho già detto io... Però aspetta un attimo, prima di cambiare ottica, volevo un attimo continuare, volevo un attimo rispondere a questa cosa. Dica. Quello che dici tu, sì, cioè il fatto che la difficoltà in Dark Souls, in Bloodborne, è il punto del gioco, se non è sbagliato, è uno dei motivi per cui in realtà scegliere la difficoltà all'inizio può essere deleterio. Nel senso che alcuni giochi, quando tu scegli la difficoltà all'inizio, ti nascondono il fatto che cambieranno l'esperienza. Cosa intendo? Giocare un gioco a facile, normale o difficile, per fare un discorso molto generico, vuol dire che cambia, diciamo, solamente in teoria, la difficoltà con cui tu combatti contro dei nemici, per esempio la difficoltà che hai nello sconfiggerli, perché magari sono un po' più veloci, sono un po' più resistenti ai colpi, magari la difficoltà può influenzare quante munizioni trovi, quanta esperienza guadagni da uno scontro, tante cose, no? Cioè può influenzare tante cose che però sono dei numeri, sono delle statistiche. Quello che intendo dire è che un gioco come L.A. Noire, per esempio, una delle opzioni che ha all'inizio è di non avere sparatorie. In realtà il gioco te lo chiede pure dopo, se hai difficoltà in una sparatoria ti chiede se vuoi saltarla. Per me questo è sbagliato, per esempio. Cioè per me questo... Io sono un po' dal lato tuo, nel senso, non hai fiducia in una meccanica se la togli, quando cambi difficoltà, no? Vuol dire che tu non sei capace di offrire una versione più facile di quella difficoltà. Quindi per me sta tutto quanto nell'abilità che ha lo sviluppatore, e ovviamente nelle risorse, perché ovviamente non è gratis questo tipo di lavoro, nelle risorse che ha lo sviluppatore, nel dire: ok, io ho la moneta, ho la pecunia per farlo, e ho l'idea per farlo. Perché? Perché io voglio rendere Dark Souls, per esempio, fruibile ad una persona che non vuole spendere 5 ore sul Demone Capra, per esempio, no? Come fai a fare una cosa del genere? Non è che dici al giocatore smetti di giocare, è troppo frustrante, oppure Dark Souls non è il gioco per te, oppure la difficoltà di Dark Souls è il punto di Dark Souls. No, perché ci sono tanti momenti, tante altre cose che sono belle in Dark Souls, la lore, i design dei boss, e quel momento in cui ricolleghi un posto di una mappa all'altro e dici cazzo. Cioè, ci sono tante altre cose, secondo me, che rendono godibile Dark Souls, e la difficoltà, in realtà, è una cosa che va sempre a scemare in tutti i Souls-like che ho provato, per un motivo o per un altro, cioè arriva sempre quel momento in cui tu entri nel ritmo, hai un personaggio abbastanza potenziato, hai abbastanza idea di cosa fare, con delle meccaniche, quindi la difficoltà in realtà è una curva che va a scendere, non va a salire nei Souls-like di solito. Ovviamente ci sono le eccezioni, boss finale di Sekiro, mamma mia. Però, cioè, per me è sempre, c'è sempre stato quel momento in cui ho detto ok, ci sono. Se quel momento lo riesci a replicare su una curva che mediamente è più bassa, no? Cioè, se tu riesci a, qualunque sia l'andamento di quella curva, che sia zigzag verso il basso, verso l'alto, quella curva che dice cavolo, quanto mi sto impegnando per andare avanti in questo gioco, ma per una persona mediamente meno preparata, mettiamola così, l'esperienza è la stessa, soggettivamente. Non so se mi sto spiegando. Tu dici... Cioè, tu dici che secondo te giochi come Dark Souls e altre cose del genere, se avessero voluto, li avrebbero potuti far funzionare anche, diciamo, con questa possibilità di cambiare la loro difficoltà? Se è quello che... è quello che... Ehi, cioè, detto. Non è tu facile. Dici, tu dici... Non l'hanno fatto, ma hanno scelto di non farlo, nel senso non che fosse impossibile da fare, non che fosse... Esatto, non è quasi possibile. Contro, come dire, quasi contro natura farlo, ecco. Per me no, per me è una cosa che richiede risorse, richiede tempo e richiede... Cioè, non è una cosa gratis da fare e non è una cosa che rientra nei piani. È una scelta che tu fai a volte perché non hai, non hai la libertà di farla, diciamo così. Guarda, cioè, il fatto che si possa fare, quello è innegabile, essendo prodotti completamente creati da noi esseri umani, li possiamo assolutamente fare in un certo modo, e potremmo, e con tempo e risorse, trovare un modo di farlo funzionare. E quindi lì, cioè, volendo togliere questioni di difficoltà di sviluppo, limiti di tempo, visioni artistiche, un po', sicuramente si può fare tutto. Quello che mi chiedo è, magari anche faccio fatica a immaginare che Dark Souls magari avrebbe anche avuto il successo che ha avuto se avesse accettato questa idea. Inteso, se comunque magari, forse un po' lo sto dicendo che andrebbe un po' contro la sua natura, ma nel senso di della natura di quello che è diventato, no? Questa... Sì, andrebbe a cambiare l'immaginario leggendario del gioco difficile, ma non lo è. Esatto. Se ci pensi, non lo è. Cioè, tutti quanti quelli che senti, che ci hanno giocato, sanno la verità. Ovvero che Dark Souls non è difficile. Cioè, io continuo a ripetere, per quanto fosse frustrante Dark Souls, specialmente il 2, come raccontavi tu prima che facessero la versione nuova. Ma infatti sì, c'è una grande misconception, non mi sta venendo in italiano, cioè incomprensione, diciamo, sotto questo punto di vista. Che effettivamente, come dicevi tu, anche lì il gioco non è difficile, la parola... Non è difficile quanto si dice. Esatto, non è difficile quanto la gente pensi. Infatti poi c'è questa incomprensione, è andata a finire tutta la storia di Dark Souls 2, che doveva, a quel punto doveva essere il gioco difficile, il gioco difficile per eccellenza, e poi questo ha creato tutti i cazzi che ci sono stati dopo, eccetera, eccetera. Ma effettivamente su quello mi trovi d'accordo, su dire che di per sé Dark Souls non è difficile, però penso sia quello anche il punto, nel senso che ciò che lo ha reso speciale quando è uscito è il fatto che pretendesse che tutti i giocatori si approcciassero sullo stesso livello, nel senso che è diventato speciale proprio perché ha chiesto a tutti coloro che lo giocavano le stesse cose, no? Nel senso, non che uno, come dire, era un po' una prova, era un'iniziazione, era quasi un rito di, come dire, un rito di appartenenza a quelli che erano riusciti, no, a battere effettivamente Dark Souls, che più lo dico più suona fuori di testa a questo punto, però è un po' così, è anche quello che l'ha reso un po' speciale, cioè il fatto di essere riuscito a farsi amare così tanto nonostante tutto quello che chiedesse da quelli che lo giocavano, perché le persone sono riuscite a vedere un po' quanto era anche speciale in quello che faceva, almeno in quel periodo. È stato veramente un fulmine, come dire, un piccolo fulmine a ciel se nero in quel periodo. Per me è parte del successo sicuramente, ma non è la cosa, cioè non è quello che lo rende speciale, secondo me, perché c'è talmente tanta altra roba e c'è talmente tanta roba che non c'entra nulla con la difficoltà. Perché, per carità, nel senso, quella modalità, no, diciamo tra virgolette, normale, nel senso quella che è la difficoltà di Dark Souls standard, è speciale, come dici tu, cioè ha qualcosa di speciale, perché è bilanciato in un modo un po' strano, richiede tanta attenzione al giocatore. Ma è una cosa che è vera per qualsiasi parte di quel gioco, la lore, il design, cioè l'attenzione ai dettagli, il world building, il design dei livelli. È un gioco pieno di attenzione. Per me però, ripeto, avere un'altra modalità fatta in maniera intelligente, più facile, non avrebbe diminuito l'effetto che ha avuto, perché Dark Souls rimane un gioco di nicchia, rimane un gioco fatto per essere il primo, dico, efficace nei costi, diciamo. Quindi è vero che è un po' antitetico dire ma potevamo spendere di più per fare una modalità facile, però siamo nel mondo della fantasia, stiamo discutendo in maniera teorica. Tra l'altro volevo dire, per tutti quelli che stavano facendo il gioco, quello delle bevute, di fare un cicchetto ogni volta che diciamo Dark Souls, fate una pausa per favore, perché sennò... Cioè, non mi sembra così centrale nel gioco effettivo. Nella leggenda, sì, per carità, nella immagine leggendaria del gioco, nel meme, Git Good, quello che ti pare, ma in realtà la community stessa interna di Dark Souls è più preoccupata della lore, è più preoccupata dei meme su Solaire. Cioè, sarei d'accordo con me che è tutt'altro Dark Souls, no? Cioè, sono d'accordo con te nel dire che Dark Souls non è solo la difficoltà. Su quello completamente d'accordo, non lo direi mai che Dark Souls è solo la sua difficoltà, no? Che è la difficoltà che ha reso speciale. Tra l'altro, piccola parentesi, noi in realtà, io e te, parlo proprio di noi due, in questo caso ci siamo approcciati molto tardi alle serie di Dark Souls, anche per quanto tu anche dopo di me, e io già ero in ritardo perché io l'ho scoperto guardando Sabaku, quindi ho scoperto anche informandoci che ovviamente quella che noi adesso, la difficoltà che abbiamo vissuto noi, la difficoltà che adesso vivranno tutti quelli in futuro, anche lì ci sono arrivati dopo parecchie patch, perché in realtà se avessimo giocato il gioco al day one, l'esperienza sarebbe stata anche diversa. Quindi piccola parentesi, giusto per dire che anche quella che... Ma questo è peggio, questo è ancora peggio. Assolutamente, assolutamente. Perché però... Miyazaki vuol dire che ha capito di aver sbagliato, perché altrimenti non avrebbe cambiato, cioè il team di From Software non avrebbe cambiato la difficoltà se non si fosse reso conto di aver fatto una cazzata. Assolutamente. Quindi, cioè, quello che dico io è che proprio avere, ovviamente, avere la difficoltà, quella intesa dal team, dall'autore, è buono. È una cosa buona, cioè... Tra l'altro, adesso parleremo di un altro tipo di scelta di difficoltà che mi piace di più. È, secondo me, meglio avere la scelta di aumentare la difficoltà o diminuirla, in ogni caso, per me. Ok, quello che diciamo, quei punti che volevo dire io, questa piccola parentesi, era appunto uno che far di nuovo come ribadire il concetto che già per gli autori è difficile capire quale sia la difficoltà giusta, figuriamoci già per poi tutti quelli che vanno a criticare un gioco solo perché è difficile, o per citare un altro fantastico evento della storia dei videogame, perché non riescono a completare un salto in un tutorial. Non so se hai capito la reference in questo caso. Ho capito la reference, purtroppo c'è un altro problema. C'è un altro problema. Sì. Quello che volevo dire io anche era appunto che, questo per dire, se la versione 1.0 di Dark Souls era ancora più difficile di quella che adesso è la versione finita, sì, finita, 1.3, credo, o qualcosa del genere, questo vuol dire comunque però che per l'autore, per Miyazaki, la difficoltà era importante, e io credo che, come dicevi tu, Dark Souls non si ferma alla difficoltà, c'è un sacco di cose, ci sono un sacco di cose dietro Dark Souls, una storia, un universo, delle metafore che vogliono essere raccontate, però quello che forse stavo cercando di argomentare io, più o meno bene, era di quanto appunto magari il fatto che effettivamente fosse difficile, che non fosse così approcciabile da tutti, l'avesse reso ancora un po' più speciale di quello che, come dire, di quanto invece non sarebbe stato se proprio tutti avessero potuto giocarlo come volevano, no? Perché lì a quel punto si entra poi in argomenti di cui non ho la minima idea di cosa sto parlando, ma cose del tipo la psicologia della difficoltà, della sfida, di no, che cosa, con tutte quelle sensazioni che si provano a trovarsi di fronte a un ostacolo e superarlo e capire le conseguenze, no, di quanto tutto questo, per quanto sia stato difficile, cosa possa esserci dopo, cosa si è guadagnato, cosa si è perso per farlo, e come dicevo appunto, cose di cui non mi sentirei assolutamente a mio agio a parlare a vanvera in questo momento, però era quello, nel senso, quello che volevo dire io è che per certi giochi, vedi tutti quelli della From, vedi i giochi un po' più all'arcade, in cui l'idea di successo, di sfida, è in parte integrante della storia, o comunque del gameplay, il fatto che siano un po' meno accessibili, siano un po' meno... Quindi si dice che praticamente mettono tutti sullo stesso livello, no? Che ti chiedono un impegno per ottenere, per salire sul podio, mettiamolo così, ha un suo perché. Poi lo capisco, no? Cioè, capisco il concetto, nel senso che il giocatore non può avere tutto subito, cioè deve avere un senso di accomplishment, come dicono, cioè deve avere un senso di aver raggiunto l'obiettivo, di aver superato degli ostacoli, di avere imparato qualcosa, comunque sconfitto qualcosa, raggiunto qualcosa. Quindi è giusto che ci sia una difficoltà. Quello che sto dicendo io è che il giocatore deve anche avere un senso di poter fare qualcosa, di avere agency, di avere libertà di modificare il mondo, nel senso, non nel senso assurdo, dico nel senso ovviamente all'interno delle meccaniche di gioco. Se io compro un gioco, non siamo più nell'era degli arcade, nelle sale dove il gioco cerca di uccidermi perché così do altri soldi. Cioè, il gioco è bilanciato in un modo diverso adesso, è bilanciato per persone diverse che, ripeto, hanno problemi diversi. Cioè, io ho visto l'altro giorno, adesso me ne ho fatto in mente, un video di una signora di 70 anni che si è comprata una Xbox Series S e diceva: a me, io ho comprato questa Xbox Series S perché non trovo la PlayStation 5, non trovo una Series X, e perché la PlayStation 5 non ha ancora dei giochi che mi interessano. Invece, hai figlio, signora di 70 anni. Esatto. Invece su Serie S ci sono tantissimi giochi che voglio giocare, JRPG che ho da recuperare, tipo Lost Odyssey, tipo, vabbè, ha fatto un po' di titoli, vabbè, che ancora lei non aveva giocato. E ho pensato, ma questa qui, no, questa signora di 70 anni, a parte che ha problemi perché il controller di Xbox è diverso da quello della PlayStation 4 e non si ritrova i pulsanti, e mi fa molto ridere questa cosa, però bellissimo. È vero, cioè no, è vero, è una cosa che ma, tutti ci passa. La possiamo invitare al podcast? Purtroppo è neozelandese, quindi ah, vabbè, però ci possiamo provare. E questa qua, cioè, sicuramente in alcuni JRPG avrà problemi, nel senso che non tutti i JRPG sono turni, sono fatti, capito, che poi prendetela con calma. Quindi una persona che non sto dicendo che ha disabilità, perché magari è sana come un pesce, però comunque fisiologicamente tu, arrivata a una certa età, i riflessi cominciano a calare, no? Cioè, non lo sto dicendo perché voglio fare il razzista contro i vecchi, però è una cosa che già a 30 anni ce l'ho io, figurati, cioè. Quindi c'è... È una cosa che gli atleti di sport sentono, che tutti quanti sentiamo, i riflessi vanno un po' a calare, quindi perché lei non dovrebbe godere di un gioco che le piacerebbe tantissimo, come Dark Souls, ma che non riesce a giocare perché altrimenti la possibilità di avere una difficoltà più bassa rovinerebbe l'esperienza a chi quella difficoltà non ne fregherebbe nulla. Capisci che intendo? Cioè, avere lo qualcosa so, che tu... È ingiusto. Cioè, tu mentalmente stai dicendo, io questo gioco non lo compro se so che è difficile, ma in realtà ti dovresti fare il ragionamento opposto. Cioè, tu lo compri indipendentemente dalla difficoltà. Cioè, la difficoltà è una cosa che viene in base al tipo di giocatore che sei, al tipo di esperienza che cerchi, e nessuno te la può togliere. Nessuno ti può togliere il fatto di aver completato Dark Souls a quella difficoltà, o Sekiro. Cioè, il fatto che... Cioè, io ho completato Sekiro alla difficoltà più difficile, alla seconda run. Ma il Demone dell'Odio non l'ho fatto. Quindi avere la libertà di poterlo fare, questo, è già scelta di difficoltà in un certo senso. Questo mi porta alla seconda categoria di difficoltà, se mi permetti, se non avevi... Assolutamente. Guarda, è quello, cioè possiamo continuare a parlare per tutta la sera di questo argomento, cercare di motivare più una visione piuttosto che un'altra... E forse alla fine comunque sembrerebbero un po' discorsi quasi tutto un po' campati per aria, perché finiamo sempre un po' sulla questione del gusto, no? Su quello che uno pensa sia giusto così, più giusto cos'ha. E beh, nemmeno io ho la risposta per cose del genere. Posso dire giusto un'ultima piccola osservazione che andava comunque fatta notare per... Cosa? C'è anche quello il punto. Tu dicevi prima per giochi, la signora voleva giocare ai suoi JRPG e giochi, diciamo, un po' più incentrati sulla trama o con così. Anche quello è un punto, inteso. Quanto vuoi... Alla fine mi sto sempre ripetendo, perché stavo per dire quanto vuoi... su quale parte del tuo gioco punti di più in questo momento? Su quale fattore? Trama, gameplay, che alla fine sono le due grandissime colonne. Se punti di più sulla trama, il gameplay ci può rimettere, anche se non crei difficoltà perfette a tutti i livelli e magari alcune risultano più semplici di altre, inteso anche semplici in modo sbagliato, più difficili in modo sbagliato se uno vuole solo giocare per la sfida. Cioè, stiamo facendo esempi per quanto riguarda queste classi di videogame, soprattutto quei giochi della From, i giochi come The Binding of Isaac, che sono stati poi, come dicevo prima, delle cose strane di per sé, delle cose veramente strane che hanno non a caso rivoluzionato l'industria, che finiamo sempre a parlarne, perché, come dire, alla fine ci sono pochi altri esempi di questi tipi di gioco, quindi come si fa a non citare sempre loro? Però allo stesso tempo forse sono anche sintomo di una cosa un po' diversa, cioè che noi finiamo sempre per citare loro, forse proprio perché hanno avuto un po' il coraggio di farla in maniera diversa da altri, perché alla fine se si parla di videogiochi, non magari eliminando tutti quelli che possono solo avere una difficoltà, vedi le come fai a cambiare difficoltà in giochi come visual novel, puzzle game e cose del genere. Se stiamo più in questa grande branca di videogiochi in cui ci sono sia azione che narrazione, il fatto di effettivamente magari anche staccarsi un po' di più dal complesso di tutti quei videogiochi che venivano rilasciati con la selezione della difficoltà, giusto per essere, come dire, per essere il più disponibili a un ampissimo pubblico, forse anche lì un po' che è stato il loro merito, il volersi distaccare un po' da quello che facevano un po' gli altri, mettiamola così. Non lo so, pensiero che mi è venuto così adesso. E che penso che a questo punto non saprei ben che altro aggiungere sotto questo punto di vista, perché abbiamo detto, come dire, abbiamo argomentato entrambi i nostri punti di vista, ma alla fine la discussione rimane, cioè ci sono punti validi in entrambe le direzioni. E sì, non... è vero, però continuo a ripetere, non è Dark Souls non è il primo gioco che ha una difficoltà unica, sola, per rispondere al tuo argomento, non è neanche, come dire, non è coraggioso per avere una difficoltà sola, è stato coraggioso per avere una difficoltà con quel tipo di picco iniziale e una storia criptica, mettiamola così. Okay. Però quello che volevo fare come contro, cioè come follow up, è presentare un altro tipo di scelta della difficoltà, perché abbiamo detto che in alcuni giochi la difficoltà la scegli prima di vedere il gioco, prima di toccare il gioco, prima di giocarlo, in altri la scegli dopo. In Call of Duty Modern Warfare c'è un percorso di allenamento, in realtà non è l'unico gioco, lo fa anche altri giochi prima e dopo l'hanno fatto, che in base al tempo impiegato ti consiglia una difficoltà piuttosto che un'altra. Per me questo è un ottimo modo, cioè, di presentarlo, perché è esplicito, quindi tu stai scegliendo una difficoltà in maniera esplicita, hai la possibilità di trovare il gioco prima per avere un po' di idea di cos'è, di come funziona, di che dimestichezza hai, e il gioco non ti preclude altre difficoltà, cioè comunque ti dice questa è la difficoltà consigliata, le altre, cioè se vuoi puoi scegliere, altrimenti no. Forse all'inizio hanno fatto l'errore che le difficoltà più alte non potevi sceglierle, cioè se il gioco ti dice la difficoltà riconsigliata normale non potevi scegliere difficile, mi sembra, no, mi sbaglio. Però per me questo è un buon compromesso, nel senso il gioco ti fa una specie di esame di ammissione, mettiamola così, e poi cioè, da lì decidi un po' come approcciarti. Una cosa del genere poteva andare bene secondo me in Dark Souls, cioè per continuare il discorso di come approcciare questo problema, perché se il problema è rendere il gioco più accessibile, dobbiamo rendere il gioco più accessibile, la soluzione non è necessariamente all'inizio scegli facile o normale, perché anche psicologicamente mi rendo conto che il gioco ti cambia, no? Come dicevi tu prima, non so se potrebbe Beh, in realtà quella funzionare. cosa lì, se posso fare un'altra parentesi, è anche, come dire, tutta quella questione di, tra virgolette, di onore dell'aver completato un gioco difficile o facile, è anche una cosa su cui poi viene, come dire, si prendono un po' per il culo già i developer a questo punto, perché avevamo citato appunto, ah no, avevamo citato Doom prima, mi stavo pensando a Wolfenstein, in cui una delle esatto. più famose schermate di selezione della difficoltà vedeva il protagonista che a difficoltà facile aveva il ciuccio e la cuffietta da bebè, esatto. E quella più difficile era lo psicopatico ricoperto di sangue dei suoi nemici, quindi... A me quello fa ridere, cioè a me piace, a molti ha fatto schifo. È un po' di autoironia, anche lì è un po' autoironico, però allo stesso tempo un po' la vede, cioè lo fa, come si dice, rinforza un po' questa idea che alcuni giochi devono essere giocati a cazzo, perdonate di nuovo, cazzo duro, però... Però è giusto, cioè... È bello perché ti dà la possibilità comunque di sceglierla, anche se lì purtroppo, ripetiamo, purtroppo si sceglie all'inizio. Però te lo dice in maniera che sembra, come dire, non so come si dice in italiano, patronizing, cioè te lo dice in maniera quasi come presa per il culo, come dicevi tu, però comunque la scelta te la dà. Cioè nel senso... Avere questa scelta che un po' ti invoglia a dire fanculo, scelgo la modalità difficile, cioè non me ne frega niente, in realtà nasconde il fatto che alcuni potrebbero dire no, cioè se posso, che me ne frega dell'umiliazione, lo scelgo, no? Mm-hmm. Ed è un po' quello che succede in altri giochi, dove questa scelta che è successiva, cioè che tu giochi un po' e poi la scelta arriva dopo, in realtà è nascosta. In alcuni giochi... tu potresti giocare tutto il gioco senza sapere che c'erano altre difficoltà. Nel senso, il gioco ha un default, non ti dice che hai scelto una difficoltà di default all'inizio, però se arrivi in un punto dove hai più difficoltà, la difficoltà cambia, oppure ti chiede di cambiarla. Stai forse parlando della difficoltà dinamica? È questa la parola che... Più o meno, allora... Ci sono due casi. Uno è il caso in cui te lo chiede, ti dice, ehi, stai avendo difficoltà in quest'area, vuoi abbassare la difficoltà? E ripeto, in un gioco come Dark Souls funzionerebbe bene, anche secondo me, perché avere questo tipo di difficoltà che ti dice, ehi, è la 12ª volta che muori contro il demone del manicomio, forse vuoi abbassare... Cioè, è una domanda che a me avrebbe fatto infuriare e gli avrei risposto di no io. Cioè, è la domanda che avrebbe energizzato la mia prima run di Dark Souls, paradossalmente, no? Perché è una domanda che ti umilia, in un certo senso. È il gioco che riconosce che stai facendo fatica. Ma, ripeto, è un'arma a doppio taglio. Quella che hai detto tu, la difficoltà dinamica, è molto più interessante, è molto più subdola. È la difficoltà tipo di Left 4 Dead. Giusto, è quello che volevi. Sì, no, infatti anche lì ho scoperto vari esempi oggi guardando. Sapevo assolutamente di alcuni giochi che avevano la difficoltà dinamica, ovvero un sistema che adattava la difficoltà del gioco in base all'abilità del giocatore stesso. Ero a conoscenza di giochi che lo facevano, Left 4 Dead, Resident Evil 4. Ho scoperto giochi che non me l'aspettavo proprio, tipo. Uno era Crash Bandicoot, tra i primi, Crash Bandicoot 2, mi sembra. Veramente? Che a quanto pare rallenta alcuni ostacoli, oppure tipo... Sì, rallenta alcune piattaforme se vede che hai particolari difficoltà nel superare certe zone. O, wow! Magari mi sembra che facesse tipo sparare con meno frequenza nemici, attaccare con meno frequenza, cose del genere. E tra l'altro, anche qui piccolo aneddoto, perché io vado matto per queste cose, per queste stronzate, e non so se la sai la storia di, se così si può definire, di dove è nata un po' la difficoltà dinamica nel mondo dei videogiochi, quando in Space Invader... non mi ricordo se avevamo già detto sta roba, però la ridiciamo nel caso. In Space Invader, quando più il giocatore riusciva a distruggere navicelle, più il resto della flotta aliena diventava veloce e difficile da colpire. E quello non era una, non era una, come dire, come si dice, un comportamento voluto dal, dall'autore del gioco. Ah, sì, mi ricordo. Esatto, ma semplicemente quando c'erano meno elementi su schermo, c'erano meno navicelle che la CPU doveva calcolare, i cicli ci mettevano meno e il gioco diventava più veloce perché la, la CPU riusciva a stare dietro a tutto più velocemente. E non lo so, questi sono sempre gli aneddoti che a me fanno impazzire. Che bellissimo. Uno tra i vari motivi per cui abbiamo, io personalmente ho fatto questo podcast insieme a te era per far sentire al mondo queste cavolate. Bellissimo. Ma sì, parlavamo di difficoltà dinamica. Guarda, io lì sono molto combattuto. Aspetta, però questo, quello che dici tu, questa è difficoltà crescente. Sì, nel senso non è proprio, non era, era giusto come dire. È non è in base punto all'abilità. Sì, sì, sì. Tra virgolette sì, perché se riesci a uccidere più navicelle vuol dire che sei diventato... Sì, sì, però è indipendente da quanto veloce le uccidi all'inizio. Eccetera. Però non sapevo da dove, dove altro inserirla nell'episodio, quindi ve la beccate qui. No, no, ci sta come argomento. Questo è un po'... è interessante perché ci sono giochi che lo fanno apposta, nel senso usano questo trope di Space Invaders, come appunto il gioco quello Missile Commander, che... ne abbiamo parlato nelle prime puntate, essenzialmente tu non potevi vincere, arrivavi a un certo punto dove i missili nucleari che minacciavano le tue città non potevi distruggerli tutti in aria e prima o poi perdevi tutte le città. Quindi è anche buono usare la difficoltà che aumenta per dare un senso di ineluttabilità, no? Di inevitabilità. Mm-hmm. Di, però quello che ne devo dire era più... quello alla Left 4 Dead, cioè una difficoltà che aumenta, cioè aumenta e diminuisce continuamente in base al giocatore, no? Che questa si... era la, la pre-alfa di questi, di questi sistemi eventualmente. Illustriamo un po' anche qualche esempio, cioè i più famosi, come diceva Jacopo, sono quelli di Left 4 Dead, dove c'è... ne avevamo parlato nell'episodio delle AI, se non ricordo male. Sì. Sì, sì. Questa intelligenza artificiale narrante, questo narratore della storia che in base a come il gruppo si stava il gruppo di superstiti si stava comportando in qua modificava il posizionamento e la quantità di degli zombie per creare situazioni di, come dire, per creare dei delle continui cambi tra momenti più rilassati e momenti più ad alta pressione, no? Alta dire. Quindi fanno pompare il sangue nelle vene. Un altro esempio che avevo citato io era quello di Resident Evil 4, che è quasi questa leggenda metropolitana, perché se ho capito bene non è mai stato ufficialmente confermato, o comunque non c'è ancora chi ne parla con vari dubbi al riguardo, ma il gioco molto semplicemente tiene conto di delle tue abilità, di quante, come dire, di quanti colpi alla testa riesci a fare, di quanti proiettili riesci a salvare durante la partita, di quanti, quanto sei bravo nell'evitare i colpi dei nemici, e se vede che sei molto bravo aumenta la difficoltà, e se vede che sei un po' più scarso diminuisce il numero di nemici a volte, oppure li rende più lenti, cose del genere. E questi sono un paio di esempi appunto di sistemi di difficoltà dinamica che si adattano alle abilità del giocatore. Cosa ne pensi di questi sistemi, Jacopo? Sono un po' indeciso, nel senso che ci sono alcuni sistemi che si adattano bene a questa cosa, cioè tipo se un giocatore ha scelto una difficoltà facile, per esempio, no? O una difficoltà normale, si può integrare questo sistema di difficoltà dinamica per cambiare il comportamento del gioco in base alla difficoltà scelta. Cosa intendo? Che tu puoi dire, ok, il giocatore ha scelto una difficoltà facile, il giocatore sta avendo difficoltà con le munizioni, non ha abbastanza munizioni, gli faccio trovare più munizioni più facilmente. se la usi da sola, cioè senza che il giocatore ti abbia dato una indicazione, diventa ancora più difficile capire che tipo di giocatore è. Se è un giocatore a cui interessa più la storia, se è un giocatore che interessa più non so, un elemento più di puzzle, un elemento più di combattimento, un elemento più di esplorazione, cioè non sai mai di preciso, cioè devi modellare in un certo senso il giocatore in base a tante diverse categorie, tante diverse statistiche, ed è difficile bilanciarlo anche, anche rispetto all'aspettativa che ha il giocatore della difficoltà. Quindi avere un sistema completamente automatico è davvero davvero complesso. È un discorso su cui ci sono letteralmente corsi all'università, tra cui uno a cui ho partecipato, ed è un discorso infinito e molto sperimentale. Quindi cioè, abbiamo parlato nella puntata sull'IA, cioè è una roba, secondo me è pericolosa. Cioè, in Left 4 Dead funzionava secondo me perché Left 4 Dead è un gioco molto semplice, nel senso che hai poche varianti in una run in Left 4 Dead, nel senso che hai una cosa da fare, che è arrivare alla prossima stanza sicura o riempire di carburante qualcosa di solito, e hai solamente come diciamo regista da scegliere dove mettere degli oggetti utili e dove e quando far arrivare gli zombie normali e quelli speciali, essenzialmente, no? Mm-hmm. E anche i parametri che hai per modellare il giocatore, cioè puoi dire quanto è bravo a sparare, quanto è preciso, quanti proiettili usa, quanto va in giro a trovare munizioni, quanto si aiutano fra di loro cioè non è un numero infinito, cioè è tutta roba abbastanza pratica per modellare il giocatore. Non è qualcosa che puoi scalare facilmente da altri tipi di videogioco, è qualcosa che viene con l'esperienza, come dicevamo prima, no? A volte neanche i designer sanno bilanciare un gioco secondo la loro, neanche loro sanno qual è la loro intenzione, no? Come è successo con le prime versioni di Dark Souls. Mm-hmm. Quindi da questo punto di vista è importantissimo il testing, ancora di più, cioè è importantissimo fare ricerca psicologica, ricerca di interazione uomo-macchina, è importantissimo proprio fare dei playtest. La difficoltà è la cosa, secondo me, che più cambia durante lo sviluppo di un gioco, cioè la difficoltà di alcune zone, di alcuni nemici. Anche perché alla fine molto spesso si riesce, tipo, a volte alcune decisioni proprio di zone, di posizionamento di nemici, di quelle, come dire, che fanno anche parte del loop principale, sono per fattori esterni anche fatte un po' all'ultimo minuto, senza avere proprio del tutto il tempo di testare come si deve tutto quanto. Quindi quello è un altro fattore che rende la cosa ancora più difficile, che rende la difficoltà ancora più difficile, giusto per per aggiungere legna al fuoco, si dice, sì. Guarda, io mi trovo più o meno d'accordo con te, ma per motivo diverso, forse per motivi un po' diversi, inteso che le difficoltà adattive, da un punto di vista di design, dal punto di vista ingegneristico, mi fanno morire, nel senso, le trovo fighissime che il gioco riesca un po' a imparare a metterti, semplificarti, adattarsi proprio al tuo stile di gioco. Da un punto di vista però di giocatore c'è anche sempre un po', come dicevamo prima, quella sensazione ma chi ti ha chiesto di darmi una mano? Magari volevo effettivamente riuscirci da solo, ma quella è sempre un po' la visione del giocatore competitivo, no? O comunque, ma chi ti ha chiesto di lanciarmi la strega addosso? Esatto, è quella cosa un po' del tipo, ok, Però non so se sono sempre contento di questo sistema, no? E infatti vorrei dire che secondo me, anche quando si parla di difficoltà adattiva, forse è un po' sbagliato in certi casi parlare di difficoltà adattiva. Come proprio per esempio quello che dicevi tu di Left 4 Dead. Perché in quel caso effettivamente non si tratta tanto di adattare la difficoltà. Forse il sistema funziona in quel caso perché non è tanto la difficoltà che viene aggiustata, è proprio l'esperienza, no? È come avere... è più quasi come... più che un regista, quasi in fase... è più in fase di montaggio, no? Che dice, ok, in questo punto voglio un po' più d'azione, in quest'altro un po' meno. E c'è quella parte che continua... come dire, che è la parte che è diventata famosa in Left 4 Dead. E che è quella che funziona, non tanto perché rende il gioco più difficile o più semplice, ma perché semplicemente serve quasi più a dare un ritmo al gioco, sì, piuttosto è vero, che cambiarne la difficoltà. Tant'è che il gioco ha la difficoltà. Tra le altre cose, giusto per, giusto per come dire, infierire ancora di più. E tra l'altro in questo esempio ci starebbe molto lampante, secondo me, un altro gioco, che però non so se vuoi se vogliamo tenere per il finale dell'episodio, del nostro momento speciale. Sì, sì, lo teniamo per dopo. Allora, su questo punto ci ritorniamo. No, sì, in questo discorso rientra anche Final Fantasy XV, cioè tutti quei giochi che abbiamo citato alla fine sulle AI. Perché alla fine c'è un sistema complesso che, come dici tu, serve più a gestire il ritmo dell'azione che la difficoltà dell'azione. Però, secondo me, è proprio il discorso che facciamo noi del fatto di non sapere, cioè, tu come giocatore psicologicamente non sai mai se... Facciamo l'esempio di Dark Souls. Per me questo sistema sarebbe deleterio, in Dark Souls, per esempio, perché... In Dark Souls uno dei modi che hai magari per diminuire e aumentare la difficoltà è cambiare il moveset degli avversari. Cioè, se un avversario normalmente ha una certa probabilità di fare una certa mossa in un certo contesto, cambiare quelle probabilità, cambiare quella logica, cambia non solamente l'esperienza di quel nemico, specialmente dei boss, ma cambia anche la percezione che hai delle tue abilità. Se tu dici io... ok che ho battuto questo boss, ma l'ho battuto perché era la 12ª volta che ci provavo e il gioco ha deciso che lo ha reso un coglione, oppure sono io che sto rendendo bravo, cioè nel senso mi hai non fatto funziona. tornare, perdonami, scusami, ma per continuare la serie delle cavolate che mi tornano in mente ogni tanto, quello che hai appena descritto mi ha fatto tornare in mente la versione 1.0 di Bloodborne in questo caso. Non so se la sai questa, ma quando è uscito Bloodborne era il momento proprio in cui il From Software era scoppiata, nel senso tutti aspettavano Bloodborne dopo Dark Souls, perché ricordiamolo, è uscito prima Bloodborne di Dark Souls 2, tutti stavano aspettando Bloodborne, chissà quanti streamer hanno streamato al day one Bloodborne. Ed è stato, mi ricordo, scoperto che se tu tenevi tipo accesa la PS4, sì, perché era uscito per PS4, se tenevi accesa la PS4 per tipo 12 ore con Bloodborne attivo, c'era un errore nella RAM e praticamente tutti i nemici diventavano stupidi perché... tipo, la RAM veniva occupata troppo, non c'era spazio per praticamente l'intelligenza artificiale dei nemici. I boss stavano quasi fermi quando tu li combattevi. E c'è stata questa cosa bellissima di gente che a un certo punto si è messa a battere Bloodborne con questo cheat code, praticamente. E allora, mi ha fatto... non so, mi è venuto molto in mente... mi sembrava adatto a quella descrizione che avevi appena fatto, no? Di quanto potesse sembrare ingiusto, no? Che Dark Souls... giochi come Dark Souls si adattassero, no, alle tue capacità in questo modo, rendendo boss incapaci di combattere pur di farti vincere. Però questo, ripeto, per non andare contro quello che ho detto prima, questo secondo me non funziona perché lo fa senza chiedertelo. Mm-hmm. Cioè, come per molte cose nella vita, il consenso è fondamentale. Cioè, in, per esempio, in Psychonauts 2, allora, Psychonauts 2 è un gioco facile. Mm-hmm. E non è che lo dico io. Qualsiasi giornalista qui chiedi, nel senso, o persona che comunque l'ha giocato, dirà la stessa cosa. È un gioco che, nonostante i temi, nonostante la trama, nonostante la, diciamo, la base di fan, è quasi per bambini, mettiamo, no? È molto un po', cioè, bartoniano, però un po' anche intendato. Quindi il gioco è bilanciato più per persone che hanno meno dimestichezza. Nonostante questo, il gioco ha una difficoltà sola, mi pare di ricordare, e il gioco è, come dire, ha delle opzioni che sono nei menu attivabili in qualsiasi momento. Tipo, c'è un'opzione che ti toglie il danno da caduta, quindi non puoi prendere danno quando cadi nel vuoto o quando cadi da altezze alte. C'è l'opzione per avere invincibilità nei combattimenti. Cioè, sono tante opzioni di accessibilità, come dicevo prima. Ah, bella, questa cosa la fa anche Celeste. Caso, ah, esatto. Ecco, Celeste è un altro gioco che è famoso per essere difficile, ma è un gioco che, sia nei temi affrontati sia nelle opzioni, parlo molto di diversità, mettiamola così, cioè di, quindi ripeto, cioè il problema è avere il consenso. Cioè, un gioco come Celeste, appunto, non può automaticamente renderti le cose più facili senza dirtelo. È brutto, cioè non lo so. Per questo è un discorso, ripeto, un discorso un po' complicato, la difficoltà adattiva. Un discorso un po' controverso. Ecco, forse tra tutte le difficoltà... Ma no, non so, stavo per dire quella che mi piace meno, ma non è vero in realtà, cioè, perché di nuovo potrebbe essere quella che mi piace meno... Se fatta veramente male, cioè proprio sì. Se proprio ci si mette d'impegno a prenderti un po' per il culo per come viene fatto. Nei giochi di Super Mario è bello perché è esplicita, nel senso che ti arriva un potenziamento che ti rende invincibile e vai dritto, però almeno lo vedi, lo puoi, di solito puoi scegliere se prenderlo oppure no. Non in tutti i giochi di Super Mario, in alcuni, però. Però sì, principalmente sono queste. Non so se ne avevi in mente altre di categorie. In realtà, come dicevamo prima, cioè... cioè abbiamo citato, abbiamo descritto tutta, come dire, il segmento, no? Da un'estremità puoi scegliere, all'altra estremità non puoi scegliere, e nel mezzo diciamo che a volte puoi scegliere senza saperlo, mettiamola così, no? Perché alla fine, esatto, scegli più o meno tu la difficoltà a seconda di quanto ti impegni nel giocare. Tra l'altro, di nuovo, piccolo aneddoto per tornare sopra, diciamo, okay. In Resident Evil 4 con la difficoltà adattiva, quello è un trucchetto amato nelle speedrun, dove a volte si accetta di giocare peggio in certe parti del gioco per fare in modo che quelle poi successive non siano troppo difficili e troppo lunghe da superare per migliorare, wow, il tempo. E anche questa cosa qua mi fa uscire di testa, perché quindi diventano degli attori, recitano, fanno finta di non sparare bene. Che figata, bellissimo, che figata assurda. Quindi ecco, diciamo che, se per concludere, per me il gioco ideale, diciamo, ovviamente sto generalizzando, appunto, ripeto, cioè, ripeto ancora una volta, mi piacciono tantissimo Dark Souls, Sekiro, così, però se vogliamo generalizzare al massimo, il gioco ideale deve essere un gioco che non ti chiede la difficoltà all'inizio, che parte con una difficoltà, che o ti chiede dopo, che hai giocato un po', o ti consiglia di diminuire o di aumentare a un certo punto, mettiamola così, cioè che ti dà comunque delle opzioni, anche nel menu, di accessibilità che vanno al di là del concetto generico di difficoltà, quella che dicevamo prima, che però appunto rimane sempre per me esplicito. Ovviamente, ripeto, è un discorso generico, quindi le eccezioni che abbiamo fatto appunto di Left 4 Dead attivo, di giochi dove non puoi scegliere, dove scegli dall'inizio, cioè ripeto, a me, io Halo sono... Cioè, io sono commosso con Marco che mi ha ricacciato la difficoltà eroica, quindi questo essenzialmente. Io, da parte mia, invece, devo ammettere che tra tutte quelle che abbiamo descritto, forse quelle... quelle che effettivamente adesso mi attirano di più, che perlomeno mi affascinano di più, sono quelle che stanno... comparendo ultimamente, che stavamo giusto appunto descrivendo, come quelle in Celeste, o qual era quello che hai detto tu, mi sta già sfuggendo. Insomma, quelle, quell'altro gioco che avevi detto tu, da cui ho detto, ah, lo fa anche Celeste, mi sta, e non mi sta già più venendo. Però intendevo quelle che hanno una difficoltà base, creata dagli autori, che vogliono, che vorrebbero che il gioco fosse... proponesse una certa sfida, ma permettono anche al giocatore di modificare l'esperienza in maniera molto dinamica, nel senso di non semplicemente incrementando la vita dei nemici o diminuendola o quanto. Oddio, mi ha fatto venire in mente una cosa. Un più appunto flessibilità. Ah, era Psychonauts, ecco. Togliere i danni da caduta, mettere un po' di invincibilità, eccetera, eccetera, giusto per creare, come dire, un sistema molto più flessibile. Di' anche tu l'aneddoto adesso, perché gli ho detto... No, scusami, mi hai fatto venire un flash di io che picchiavo per 5 ore un granchio in Oblivion. Ah, cosa hai tirato fuori? Ma perché tu, non so se lo sai, io ho scoperto che in Oblivion la difficoltà, l'adattabilità, l'adattamento della difficoltà era una cosa assurda, ho scoperto. Perché io... lì c'era difficoltà adattiva. Aspetta. Sì. Mi stai dicendo... Cioè, allora, per me in Oblivion la difficoltà era solamente la quantità di salute dei nemici e quanto danno facevano. Quindi tu mi stai dicendo che cambiavano anche tipo le quantità di nemici e cambiava il gioco in base a me? Non proprio, perché lì era una di quelle versioni sbagliate, per esempio, lì, neanche da un punto di vista filosofico, ma proprio da un punto di vista tecnico sbagliate, perché i nemici non scalavano come in Skyrim, come siamo abituati adesso. Ma semplicemente il gioco, più salivi tu di livello, più, come dire, ti lanciava addosso nemici adatti al tuo livello. Questo però cosa voleva dire? Che se uno, per esempio, perdeva oppure non faceva certe quest ai livelli adatti, poteva rischiare che, tipo, se trovava una quest che diceva di trovare una pelle di lupo a livello 50, il gioco non ti spawnava più nessun lupo perché erano troppo deboli per te, quindi non potevi mai finire quella quest. Che bello. Ah, sono bellissime. Comunque no, Oblivion, cioè, è un gioco affascinante, pieno di stranezze. Che mi ricorda ancora la missione nel quadro, che ci sono capitato veramente... Che bello. Così a caso, vabbè. Era un gioco magico, perché era un gioco... Cioè, l'internet ancora non esisteva tanto, cioè era un po' poco usato. Quindi tu trovavi queste cose e dici, ma che cazzo... Cioè, era magico in un certo senso, perché era strapieno di bug, era pieno di queste missioni che ti trovavi, tipo appunto per quadro o la cena con delitto. E poi era anche pieno di... Cioè, cose tipo le routine dei personaggi. Non so, ti ricordi che ogni personaggio aveva la sua routine? Certo che, come dire, era rivoluzionario ai tempi il sistema delle routine. E però si buggava, tipo i personaggi si suonavano tutti in piedi per fare colazione. No, vabbè. Che botta di nostalgia. Bisogna anche dire che forse alcune di queste cose ci sembrano strane adesso, ma semplicemente perché negli anni 2000 chissà cosa potevano aver scritto gli scrittori di tutti quelli che avevano fatto le quest di Oblivion, cose del genere. Noi ci sorprendiamo per quella del quadro di Cena con Delitto, chissà quali altre cose fuori di testa potevano essere state poi accantonate o bocciate dal team di sviluppo, perché mi sa che sì. Fuori di testa, Madonna. Quindi, per concludere, perché direi che spero ci stiamo avviando alla conclusione, perché temo che la puntata sia venuta lunga un paio d'ore quasi. Qual è la morale finale della favola? Che la difficoltà... La difficoltà è una cosa personale. Che ognuno ha la propria difficoltà, oppure che la vita... No. Che la vita è già difficile e i giochi non dovrebbero... Dovrebbero batterci troppo sopra su questa cosa, non devono infierire, o mettiamola così. Oppure, no, dipende. Se la vera metafora finale è andate tutti a fanculo, giocate i giochi come preferiti e sbattetevene un po' di questi discorsi filosofici che noi facciamo alle 10 di sera, se vogliamo chiuderla così. E detto questo, direi che sì, c'è il nostro momento preferito. Get you waiting, huh? Okay. Non mi abituerò mai messo dal cellulare sul mio. Oh, che cazzo vuoi? No, assolutamente. Dovremmo prendere un mixer. Allora, in realtà ho delle cose da dire, ma vai prima tu, perché anche tu. Ma in realtà io, tra le mie, quando dicevo prima, tra le mie ricerche della difficoltà adattiva, ovviamente in tutti gli articoli che ne parlavano veniva citata quella di Metal Gear Solid 5, ovvero di come i nemici, gli avversari di questo gioco, i soldati, si adattassero alle strategie del giocatore e come dire, agissero di conseguenza. Per esempio, se il giocatore tendeva a fare parecchi colpi critici, colpi alla testa, i soldati a quel punto avrebbero indossato elmetti protettivi. Se il giocatore prediligeva gli agguati al buio, allora gli avversari spawnavano con i visori termici o cose del genere. Ecco, quello secondo me era un altro bellissimo esempio di difficoltà adattiva, perché lì non era il gioco che semplicemente diventava più difficile, non è che incrementava la vita dei nemici o li rendeva più forti. Semplicemente ti proponeva di affrontare sfide che potevi già aver affrontato altre volte, perché alla fine le missioni erano quelle, cioè dovevi infiltrarti, dovevi combattere altri soldati, ma ti spingeva a affrontarle in maniera diversa, ti spingeva a esplorare il sistema di gioco che Kojima e il suo team, grandissimo team, aveva creato in chissà quante ore di sviluppo, in chissà quanto tempo. Ti diceva: abbiamo fatto tutto sto ben di Dio e vorrai magari non usare solo la pistola tranquillante di tanto in tanto, no? Ecco, questo è un modo salutare, interessante, di cambiare. Ed anche qua si usa sempre il termine difficoltà, quando in realtà la parola difficoltà poi ha mille sfumature diverse. Più che difficoltà qua è cambiare approccio, no? Cambiare sfida, quasi, più che la difficoltà in sé. Il fatto di mostrare rischi nello generalizzare, perché ricordo che questa cosa mi creò proprio come posso dire, rimasi estasiato. Cioè, la prima volta che mi sono reso conto, cazzo, questi qui sono tutti quanti elmetti perché sono 3 ore che faccio solo l'edicio. Cioè, ma anche più tardi, quando comincio ad adattarsi alle altre cose che fai, cioè, io mi ricordo che cazzo è sto gioco. Cioè, è veramente un gioco che molti hanno insultato, vabbè, giustamente per problemi di trama e di incompletezza, ma che vorrei più persone avessero apprezzato a livello di gameplay, perché è veramente, veramente bello. perché se uno ci pensa, il capitolo 1 del gioco, che è quello veramente completo, fa, cioè, come dire, come che si dice, va praticamente rivaleggia, mi sto già addormentando, scusate l'italiano, ma praticamente messo a confronto con altri titoli completi li fa un po' impallidire anche sotto molti punti, diciamo, quindi perché anche un capitolo del gioco fa impallidire il giochi completi per Anche Ground Zeroes, assolutamente, giusto, sono due capitoli completi meno. Perché Ground Zeroes tutti quanti ma un gioco che dura 10 minuti se lo fa, però cioè, quello è il bello, cioè quel gioco Ground Zeroes se lo puoi finire in 10 minuti come lo puoi finire in 2 ore, cioè puoi davvero sceglierti la difficoltà, sceglierti l'approccio, è sempre diverso ed è quello che mi piace anche di Phantom Pain, che questa, diciamo, difficoltà dinamica tra virgolette serve solamente a costringerti a trovare un'alternativa, a trovare un approccio diverso, come dicevi tu prima. Spinge alla creatività. Esatto, ed è una cosa che solamente i giocatori pigri odiano, solamente i giocatori che sono, diciamo, tra virgolette, poveri di spirito, che, ripeto, non sono quelli per cui devi cambiare la difficoltà. Cioè, voglio fare magari questa precisazione, se magari non mi sono spiegato bene prima, non sto parlando di giocatori che vogliono... I giocatori pigri, quelli che non hanno anche un po' la voglia di divertirsi un po', no? La voglia di... Cioè, è un sistema che invoglia il divertimento, nel senso il tentare... Vero, vero. Perché alla fine è facile trovare la strategia migliore, come dicevi tu, fai solo headshot, bam, finisci le missioni in 10 minuti, Però lì invece ti spinge un po' a, come dire, a smuovere tutta la situazione. E anche lì, ora che uno ci pensa in questo momento, quali altri giochi abbiamo visto che facevano una cosa del genere? Pochi. Ci sono pochi giochi che hanno il coraggio, e questo secondo me è davvero coraggio, di far uscire il giocatore dalla sua comfort zone, perché darti un po' il dito medio. Kojima è famoso per dare il dito medio al giocatore, però ripeto, qui lo fa nel nome del divertimento, che è una cosa rara anche per lui, devo essere sincero. è difficile, cioè, perché molti giochi hanno paura a puntare un riflettore sulla tattica che hai trovato tu come meta, diciamo, no? Come dicevamo l'altra volta nell'episodio, tu hai trovato magari una tattica che funziona, il gioco ha un po' paura a smontartela, secondo me. A volte, vabbè, ripeto, anche un fatto di risorse, non riuscire ad avere i sistemi per individuare quando un giocatore ha trovato un modo per barare, non per barare, per fare in maniera molto facile qualcosa e usare sempre la stessa tattica per vincere sempre, ma è ancora più difficile fare la scelta di contrastare questa, diciamo, questa voglia che abbiamo tutti come esseri umani di trovare il percorso di meno resistenza, cioè di resistenza più basso. È proprio una legge della fisica. Poi magari chi lo sa, tutti i soldi che Kojima ha impiegato per creare un sistema del genere, se non l'avesse fatto magari avrebbe finito tutti i capitoli, questo non potremo saperlo, però... No, questo troppo. Questo... Però bravo che hai ricacciato questa cosa, che effettivamente è un buon controesempio a quello che dicevo prima. E poi, però, se qualcuno si rifiuta di giocare al gioco come vuole Kojima, c'è sempre il cappello Apollo che poi... Esatto. Validissimo e molto bello anche. Molto assolutamente. Fascino. Per della serie... della serie, diciamo, prima del prendere un po' per il culo i giocatori che vogliono la vita facile. Quindi, quello che volevo dire io invece era... Prego, assolutamente, scusa, stavo... Conan O'Brien. No, non ci credo. Conan O'Brien, c'è un personaggio in Death Stranding che è Conan O'Brien, che è un come si chiama, un host, un presentatore di un talk show in America, e lui come missione ti dà, se la fai, gli dà un cappello da lontra in Death Stranding. È vero che c'era, che ti consente di galleggiare all'infinito per dei fiumi, non mi ricordo bene. Questo però in realtà, il concetto è che in Death Stranding la difficoltà è cambiabile, diciamo, è personalizzabile da missione a missione, non solamente tramite menu, ma proprio fisicamente, in maniera tattile nel mondo di gioco, tu puoi usare uno strumento piuttosto che un altro per renderti più facile o più difficile in modi diversi l'attraversamento, perché alla fine il gioco è un gioco di attraversamento, cioè tu devi andare da un punto A a un punto B in un certo modo. La cosa che mi piace di Death Stranding è che si vede proprio che l'intenzione del gioco è questa, cioè lui non gliene frega un cazzo dei nemici, quindi delle CA o dei BT e dei muli. Non gliene frega un cazzo potenzialmente, anzi, forse è una meccanica che andrebbe un po' ribilanciata di quanto si deteriorano i pacchi, o di quanto si deteriorano le cose che incontri per strada. Si vede che è un gioco che è incentrato sulla camminata, sulla relazione che stabilisci con gli altri giocatori che il gioco ti presenta come più, diciamo, vicini a te. Difficile da spiegare come concetto, però sono giocatori che incontri più spesso nella tua camminata, che vedi più spesso come nomi. E si vede perché puoi scegliere la difficoltà in Death Stranding, che è una cosa che non tutti i giochi di Kojima hanno, o almeno mi ricordo che perché solo il 3 ce l'aveva, e mi pare forse anche il 4. Ma sinceramente non ricordo del 5 o di Peace Walker o dell'1 o di altri. Comunque, sinceramente non ricordo degli altri. Però c'è una difficoltà in Death Stranding che è una difficoltà molto facile, si chiama, che rende il gioco davvero, cioè, cambia quasi completamente il gioco e lo concentra solo su quell'esperienza, diciamo. Lo rende una passeggiata. Esatto, letteralmente. Però ricordo anche che c'è l'altra faccia della medaglia, cioè che a Kojima piace anche creare delle esperienze molto estreme nell'altro senso, cioè oltre che ridurre all'osso un gioco come Death Stranding concentrandosi solo su un elemento, una difficoltà più facile, ovviamente non è che rimuove le battaglie contro il BT o i muri, eccetera, c'è tutto comunque, ripeto, per fortuna lui non ha mai, che io sappia, tolto delle sezioni come le noir. Però tipo, mi ricordo che a Metal Gear Solid 3 c'erano tantissime run di alcuni giocatori fatti in modalità, mi sembra, difficoltà europea, una cosa del genere. C'era difficoltà con un nome speciale, in Snake Eater. E c'è il concetto di permadeath, c'è il concetto di sopravvivenza. Cioè, ci sono delle meccaniche in più, quasi, che nel gioco normale tu non puoi anche ignorare, praticamente. Se non ricordo male. Adesso magari mi correggi, però mi pare che ci fossero cose a cui devi stare più attento. Non... Quelli sono dettagli che purtroppo non ricordo nemmeno io. Cioè, mi ricordo che, tipo, c'era nel gioco normale, c'è una scena in cui tu devi medicarti perché ti sei fatto molto male, sei nella foresta. E c'è tutto un tutorial sul meccanimo di, diciamo, di primo soccorso. Rendeva più semplice forse il primo soccorso, in effetti. Non ricordo. Esatto, nel gioco normale tu in realtà potevi anche dimenticarti di quella di quel sistema di menu di primo soccorso, perché era tutto un sistema di braccia, gambe, difficoltà nel fare una cosa piuttosto che un'altra. E invece difficoltà più alte, no, ce ne avevi bisogno, devi stare più attento all'indicatore dell'adrenalina o della psiche, dipende da chi chiedi. No, cioè, erano cose fighe che vedere poi in una speedrun soprattutto diventano, cioè, è interessante comunque. Concetto di permadeath, poi vabbè, È una cosa un po' estrema forse come modificatore della difficoltà, perché prima dicevamo è bello avere quelle opzioni nei menu per cambiare la difficoltà in maniera granulare. Secondo me la difficoltà di Permadeath è una cosa quasi a parte come categoria, cioè rientra un po' quasi nel discorso dello speedrun, no? Beh, anche Minecraft ha Permadeath, quindi... Molto bene. Non so bene cosa c'entri, infatti, questo discorso, però ci stava a dirlo, no? Scusa. Minecraft effettivamente non aveva una difficoltà all'inizio, mi sa. All'inizio, prima versione, c'era solo la creativa, non c'era neanche la survival. No, dico la mia survival, dico proprio, mi pare, non ci fosse... Ah, tu dici sì, tra... Sì, forse hai ragione, non c'era nemmeno... C'era solo la normale, poi hanno aggiunto Easy... Hard mode. Hard, sì. Ok, che tirata, questo... Beh, pesantino, episodio molto più lungo di quanto non pensassi. Non pensavo ci fosse così tanto da dire. Alla fine abbiamo giusto... Non so, abbiamo avuto un piccolo dibattito senza una vera e propria conclusione finale, come capita molto spesso, ma allo stesso tempo volevamo giusto informarvi che nella nostra follia c'è spazio anche per questo. Quindi, io non so te Jacopo, ma sono distrutto, ringrazio tutti i nostri ascoltatori, grazie per averci seguito, grazie per aver ascoltato le nostre follie, i nostri deliri. Io ero Jacopo, sono distrutto anch'io. E continuate a giocare. Ciao ciao.